Ethno Chic, musica ad indicazione geografica protetta. Musica con indicazione geografica protegida. Musique avec indication géographique protégée. Music with a protected geographical indication. E buonasera a tutti e benvenuti anche stasera a Ethno Chic da Vladimiro. Da Azul. E da Babbe, anzi, welcome, willkommen, bienvenue. Siamo internazionali, no? Sì, stasera andiamo abbastanza a occidente, ma non troppo, insomma. Comunque, allora ho sbagliato lingue, non ne ho presa neanche una. Andiamo in Portogallo, meglio ci restiamo, perché l'altra volta, ti ricordi, Azul, abbiamo parlato di... Fado. Esatto, della canzone urbana tipica del... E per noi italiani ignoranti esiste solo il fado del Portogallo. E allora cercheremo di allargarci un po' e soprattutto vedremo quella che è la musica tradizionale delle campagne e delle varie regioni del Portogallo, che infatti appunto si chiama musica regionale. Sembra una zampogna, oppure... Una cornamusa, cioè siamo in Scozia. È sempre la famiglia di zampogna, è una gaita, è appunto lo strumento che troviamo nel Portogallo, in particolare nel nord del Portogallo, qui siamo il Trashos Montes, che vorrebbe dire al di là delle montagne. Vuoi che i Celti siano arrivati fin lì? Il problema è il Portogallo, è che in realtà ci sono stati molti, molti passaggi di popolazione, dagli arabi alle popolazioni galliche, insomma è stato, per quanto noi lo immaginiamo come una regione periferica assolutamente al di fuori quasi dei confini del mondo, in realtà è stato il passaggio di molte popolazioni. Anche Lisbona stessa mi pare che abbia avuto una fondazione proprio degli arabi, e questo brano è proprio un brano per le feste, che tuttora è suonato nelle feste e di notte, di giorno, è proprio nella regione Trashos Montes. Era una ronda dos innamorados registrata nel 1982. Questa sera noi vi presenteremo una serie di registrazioni tradizionali, soprattutto registrate nell'arco di tempo che vanno dagli anni 70 praticamente a oggi, in quanto è proprio dagli anni 60 che, grazie al lavoro pionieristico di un etnomusicologo corso che si chiamava Michel Giacometti, che intraprese una serie di ricerche in modo autonomo, assolutamente autofinanziandosi, che iniziò una ricerca di tipo intensivo, come si dice, sul campo, di documentazioni di tutte le tradizioni popolari del Portogallo. Questo anche col sostegno di un altro personaggio importante, che era Fernando López Graça, che era un compositore, ha scritto molta musica corale, musica per i cori, per i bambini, e soprattutto si è occupato di tradizione a livello teorico ma anche a livello pratico, e ed è stato un po' il compagno di viaggio, sostanzialmente quello che ha sostenuto anche queste prime ricerche. Però da allora in poi tutte queste ricerche non sono finite, e quindi vedrete una serie di esempi che sono praticamente di queste ricerche, soprattutto quelle più recenti. Abbiamo deciso di farvi sentire proprio queste registrazioni di questo Cos'è Alberto Sardigna, che sono degli anni 80 e 90, che sono state pubblicate qualche anno fa su dischi Armonia Mundi, e poi le registrazioni più recenti del 2003, in cui Ivan Diaz e Manuel Rocha hanno ripreso le orme di Michel Giaconemetti 35 anni dopo, più o meno, facendo un altro puntata di questo, e fino ad arrivare oggi alle ultime registrazioni, che sono state edite proprio l'anno scorso, due anni fa, da Tiago Pereira per la Tradisom, che è un'etichetta discografica che si occupa di musiche tradizionali e popolari non solo portoghesi ma anche dei vari paesi lusofoni, e questo si chiama O Povo Che Ainda Canta, cioè il popolo che canta ancora. Poi vi spiegherò perché questo popolo che canta. Adesso partiamo proprio dalle isole del Portogallo, le isole d'Azzorre, e dalla musica strumentale di questa chamarrita. Signora chamarrita é uma santa mulher, sai de manhã para a missa, volta à noite quando quer. Qui eravamo nell'isola di San Miguel con una chamarrita. Nel bel mezzo dell'Atlantico. Nel bel mezzo dell'Atlantico, isola di Azzorre. Atlantica. Sì. Sei veramente lontanissimo da tutto. Sei lontanissimo da tutto, e si sono industriati, hanno una tradizione musicale ancora viva, un carnevale, e, come dire, fra l'altro un posto particolare, veramente bellissimo. E anche il prossimo brano è una chamarrita, solo registrata. Questa era stata registrata nel 97, questa è registrata da un violinista molto bravo che si chiama Manuel Francisco Costa, e questa chamarrita do Pico la vediamo registrata nel 2003. direi che col fado ci azzecca poco. No, infatti, giustamente per loro la musica, le Azzorre, la loro musica è questa, non è certo il fado. Siamo un bel po' lontani dai barrio di Lisbona. È così. E continuiamo sempre con le Azzorre, con altri due brani, questo Pessigno da Vila e questo Tanciao, sempre da queste registrazioni su cui ci siamo concertati abbastanza, perché sono abbastanza complete e relativamente recenti, degli anni 80-90, di questo etnomusicologo, cos'è, Alberto Sardini. Radio Città del Capo, Etno Chic, 94.7, 96 e 2.50. E che dire? Siamo che le azzurre. Sì, infatti, da brava brasiliana mi rendo conto un po' della differenza dei portoghesi anche. Alcuni riesco a capire, altro no. Questo ho dovuto concentrarmi un po', chiudermi la cuffia per sentire per bene le parole. Eh sì, perché appunto stavamo guardando che appunto le azzurre sono quasi più vicine al nuovo mondo che non al vecchio mondo, per così dire, giusto Bam? Beh sì, diciamo che ci sono ancora parecchie migliaia di miglia per arrivare in Labrador, però ci spingiamo più in là. Sì, sì, sono parecchie ovest, sono veramente in mezzo all'oceano Atlantico ed erano uno degli avamposti della rotta atlantica per arrivare alle Indie. E qui c'era, chiudiamo questa parentesi azzoriana con un brano che viene dall'isola di Terceira stavolta, perché come sapete le Azzorre sono un arcipelago, quindi è composto di più isole. Questa Vida do Caracol, la Vida di Lumaca, registrazione del 2003 di questo brano che racconta della battaglia tra il contadino e la lumaca che gli vuole mangiare i frutti del suo orto e quindi il contadino si arrabbia un po'. Vida de caracol, a vida de caracol é uma vida arrastada, é uma vida arrastada. Anda com a casa às costas, anda com a casa às costas, aonde quer faz morada, onde quer faz a morada. Caracol, caracol, tu pensas, caracol, caracol, tu pensas que sempre vais escapar, que sempre vais escapar. Mas qualquer dia de noite, mas qualquer dia de noite, por certo vais-te enganar, por certo vais-te enganar. O caracol é velhaco, o caracol é velhaco, só quer é praticar mal, só quer praticar mal. De noite vamos ao tabaco, de noite vamos ao tabaco, e às couves do quintal, e às couves do quintal. Eu já vi um caracol, eu já vi um caracol a subir uma parede, a subir uma parede. Ali depois veio o sol, e ali depois veio o sol, caiu morto de sede, caiu morto de sede. Sarà Vida do Caracol dall'isola di Terceira, registrazioni sul campo del 2003 di Manuel Rocha, il direttore fratto del conservatorio di Coimbra. Però i musicisti non sono professionisti. No, esatto. Non hanno fatto l'accademia. No, nessuno di loro ha fatto assolutamente l'accademia, tutti l'hanno imparato da loro quotidiano, nel quotidiano, nella vita, se non dal padre, oppure dalla madre, oppure dal fratello, oppure qualche festa, insomma. Così. E col prossimo brano cambiamo regione, andiamo nel Migno, andiamo più nel centro del paese e vediamo, ascoltiamo questi due brani e poi ne parliamo, vero? Proviamo. Oh, Il primo brano, sinceramente, non eravamo in Puglia né in Calabria. Dove eravamo? No, però poteva sembrare, no? Eravamo sempre nel Minho, questa regione interna del Portogallo. Stavolta siamo andati sul continente ed era una ciula, che è una delle danze, diciamo, tradizionali più diffuse un po' in tutto il territorio. Poi una tirana suonata con queste viole campaniste, che sono questi chitarrini di cui abbiamo veramente molte varietà, sia nel Portogallo che anche nella Spagna, soprattutto nel sud della Spagna. Però, scusami, il particolare di questa ciula che mi ha colpito è che era proprio registrata in piazza. Eh sì, perché appunto, come dicevamo, comunque sono tradizioni che, queste sono sempre registrazioni degli anni 80-90, ma abbiamo sentito prima delle registrazioni del 2003 e ci sono anche più recenti, sono cose che tuttora, con tutte le variazioni e modificazioni che la tradizione, che è un po' qualcosa che finisce sottoterra poi rispunta cambiato, insomma continua trasformazione, ci sono e sono presenti, perché evidentemente, come dicevamo una delle prime puntate, c'è sempre la voglia di fare festa, insomma, non, e di non fermarsi davanti al telefonino, e invece probabilmente alcuni lavori che si sono persi, alcuni canti di lavoro, sono per esempio quelli di accompagnamento del bestiame, però chissà. E adesso vi facciamo vedere un paio di esempi brevi. Uno è praticamente legato ai canti di lavori, è una specie di canto che viene dall'Estremadura portoghese, che sarebbe un canto un po' a danza, che è appunto di questi lavoratori dei campi, una moda da seifa, e poi la boio, che proprio si sente, c'è anche la voce che accompagna gli animali, soprattutto le mucche per la ratura o per il pascolo, sempre dall'Estremadura. Non quero che vada a seipa, ai non quero che vada a seipa, ai non quero che vada a seipare, ai non quero che vada a seipare. Non quer canzo calori, ai non quer canzo calori, ai pelo campo a trabalhare, ai pelo campo a trabalhare. Adeus ao monte caído, ai adeus ao monte caído, ai adeus monte da baracha, ai adeus monte da baracha. Quem na charneca se perde, ai quem na charneca se perde, ai ó Porto Alto se acha, ai ó Porto Alto se acha. Vila Franca, Rosa Branca, ai Vila Franca, Rosa Branca, ai Jardim de toda a flore, ai Jardim de toda a flore. O meu peito é mesa branca, ai o meu peito é mesa branca, ai onde janta o meu amor, ai onde janta o meu amor. Ai, che lindo! E queste comunque erano registrazioni di non tantissimi anni fa, insomma. Eppure sembra di essere tanti anni fa. Tantissimi anni fa, sì. Sembrano registrazioni fatte anche in Italia, magari prima del dopoguerra. Ricordavano sì. I film di De Santis, esatto. In Sardegna o nel meridione d'Italia, ma erano film girati alla fine degli anni 50. Che poi questi non sono, cioè sono proprio canti popolari, sì, si impara da bambino, chi babbo canta e così via. Eh sì, a volte proprio come il caso del prossimo canto si può imparare da molto piccolo, ma anch'io, molti di noi si portano dietro delle ninne nanne che cantava la nonna, cose, mi ricordo aver sentito molto spesso delle persone cantare ninne nanne sconosciute sul treno, così. E questo infatti, questo embalo sentirete, che si sente anche il rumore della culla di legno che si muove. Qui siamo nella Beira, regione della Beira. Calete menino, cale, calete menino, cale. Che signore lovo vai, che signore lovo vai. Foi lavar os coveirinhos, foi lavar os coveirinhos. Aos chefes de Belém, aos chefes de Belém. Cala-te, menino, cala, cala-te, menino, cala. Cala-te, toca calar, cala-te, toca calar. E tenho muito o que fazer, eu tenho muito o que fazer. Não te posso embalar, não te posso embalar. Oh. Avete sentito sul finale proprio il rumore della culla che si muoveva, le vecchie culle di legno che forse qualcuno ancora si ricorda, forse ha visto a casa di qualche nonno. La culla di legno, toc toc toc. Esatto. E, un'altra tradizione che chiaramente non si è persa in un paese cattolico come il Portogallo, insomma, è la tradizione delle processioni delle Romarias e quindi anche della musica sacra e profana legata a queste situazioni, che sono comunque dei momenti per fare feste. E quindi vi facciamo sentire proprio uno di questi brani, sempre la Beira Baixa, che è Senhora do Remedios. Faremo proprio un accostamento tra una versione proprio registrata appunto sul campo, come si dice, quindi proprio durante una di queste processioni, e poi una versione di un gruppo che riprendendo questa registrazione come riferimento e anche un altro canto di processioni, ne ha fatto un po' un brano in chiave un pochino più, con un arrangiamento diciamo abbastanza folk. Questo gruppo si chiama Nota Si Volta, è un disco del 2004 che si chiama De Gantado e che non a caso ha avuto la sponsorizzazione dell'istituto Luís de Camões, che è l'istituto che promuove la cultura e la lingua portoghese in tutto il mondo, è come se fosse il Cervantes o il Goethe, l'istituto per il Portogallo. E quindi questa Senhora do Remedios. Thank you. siamo sempre su Ethno Chic, Portogallo, musica regionale. E abbiamo sentito questi esempi di, possiamo chiamarli di musica e religiosità popolare, insomma. Sì, nella prima si sente molto anche l'evocazione con quello suono dico tamburi, ma non so che strumento era, ma sì, dovrebbero essere dei pandeiro, che sono dei tamburi a cornice. Sì, sì, cioè proprio si sente questo richiamo, questa sfilata di gente che fa processione. Infatti ho pensato di accostarli, anche perché si sente che di fatto la prima versione, per quanto più spoglia, forse è anche più incisiva, la seconda si perde, sembra un valzerino con tutto l'arrangiamento, i cambi, eccetera eccetera, anche perché comunque sono a volte le melodie rese nella loro semplicità e sottolineando questa loro semplicità a volte insomma rendono bene. E chiudiamo questa parentesi con un altro brano, Gesù Bambino, Beche Menino, sempre dai Trashos Montes, uno dei tanti brani, diciamo, quasi potremmo definire natalizi, insomma, che ci provengono da questa regione. São os filhos dos homens em versos dourados e vós, meu menino, em palhinhas deitado. Em palhinhas deitado, em palhinhas esquecido, filho de uma roja de um cravo nascido. Sois um manso cordeiro que estás nessa cruz, com os braços abertos, perdoai-me, Jesus. E com questo andiamo a um outro repertório che ha avuto una grande importanza, perché è un repertorio, quello dei canti narrativi, di questi canti strofici o ballata popolare, dir facendo, che ha avuto strada dal Medioevo fino a praticamente arrivare fino a oggi, e raccontando delle storie molto spesso tragiche, poche volte scherzose, e che in qualche modo si sono diffusi per tutta Europa, arrivando anche fino a oltreoceano, portando su quali basi, perché praticamente esprimevano la visione verso il mondo in cui vivevano le persone, soprattutto delle campagne, insomma, e in qualche modo il loro giudizio anche verso una società e verso a volte anche proprio le ingiustizie di questa società, in particolare rispetto al ruolo della donna e come la donna veniva, insomma, subiva le costrizioni familiari che la società le imponevano. Spesso in contesti nobiliari emergeva questa violenza contro le donne, il sopruso del potente contro il più debole. E questa romance di Donna Silvana è un esempio, è una versione registrata fra l'altro nel 1990 a Guarda. La storia è questa: il figlio del re si deve sposare, il re ordina a questo. La figlia del re si deve sposare e il suo pretendente, questo conte Alberto, è già sposato e il re gli ordina di uccidere sua moglie. E nel finale poi subiranno il castigo, quindi c'è una specie di lieto fine, ma è una tragedia sicuramente, e quindi c'è il sopruso del potente e anche del marito verso la sua sposa, che in qualche modo può prendere e scaricare a piacimento. Questa romanza di Donna Silvana, appunto, registrata nel 1990. Andando Donna Silvana pelo corredor acima, tocando numa guitarra muito vai a retenia, acordou seu pai na cama, no leito onde dormia. Que tens tu, Dona Silvana? Que tens tu, ó filha minha, de todas minhas irmãs? casada está em família. Eu que sou a mais formosa, para o canto ficaria. Já não há ninguém na corte com quem case a minha filha, a não ser o Conde Alberto, é casado, tem família. A não ser o Conde Alberto, é casado, tem família. Com esse meu pai, com esse, este mesmo é que eu queria. Mandei-o logo chamar à hora do meio-dia. Mandei-o logo chamar à hora do meio-dia. Ainda agora vim da corte, já o rei me mandou chamar. É talvez algumas. É sempre Etno Chic. Stiamo andando un po' verso la chiusura, vedevo proprio adesso 22:22, siamo in diretta e vi proponiamo altri tre ascolti che sono sempre del 2003 di questa raccolta, che si chiama Povo che canta e appunto Popolo che canta. Come mai si chiama Popolo che canta? Perché la prima trasmissione, che appunto abbiamo parlato prima di questo studioso corso che fece le ricerche, e Lepes Grassa, che appunto lo sostenne, questo compositore ricercatore, questa divenne anche una trasmissione che c'era stata negli anni 60, fine anni 60-70, in cui Giacometti aveva ripreso, facendosi beffe della censura, della dittatura, degli Salazar, ha ripreso una frase di una canzone antifranchista che diceva «Povo che canta, ne può de morrer», che vuol dire «popolo che canta, non può morire». E in qualche modo è il lascito non solo di Giacometti ma anche di questo repertorio, insomma, come dire, la memoria, e coltivare la memoria ci tiene vivi. Quindi il primo esempio è una cantiga da Sasha, è un canto polifonico dal Migno, appunto dalle registrazioni invece del 2003. Migna, sai a Migna, tu Migna, da andare a bailar. Agora tenho uma nova feita de moda para estrear. Ai, não olhes para mim, ai, não olhes tanto, tanto. Ai, não olhes para mim, eu não sou o teu encanto, eu não sou o teu encanto. Ed ecco, e siamo quasi in chiusura. Vi salutiamo, E vi diamo appuntamento al prossimo mercoledì. Ma prima di salutarvi, queste Saies e Danzas do Sanxinhos, che praticamente vengono dall'Alentejo, questa regione a sud del Portogallo, ricca di tradizioni, che praticamente sarebbero i bonecos del Santo Aleixo, sarebbero queste spettacolo di marionette, dove c'è anche un musicista che suona una viola, campanista, e che accompagna appunto lo spettacolo. E sentirete nella prima parte questi, insomma, quelli che tengono i marionettisti, che cantano queste canzoncine. La storia è la storia della creazione del mondo con Adamo ed Eva, il serpente, ma ci sono molte cose nello spettacolo, vengono fuori riprese dall'attualità del momento, insomma, e alla fine c'è questa danza degli angioletti, che è un po' il momento in cui appunto fanno ballare si sentono che fanno ballare le marionette. E quindi con questo vi salutiamo. Salutiamo anche tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, in particolare abbiamo un gruppo di ascolto di geografi. Saranno estate le Isole Azzorre. Può essere. Buonanotte a tutti. Buonanotte e buon viaggio. Prima! Ai prime, gosto, tanti prima! Ai prime,